Una rete composta principalmente da gruppi e collettivi europei. Per l'Italia ne fa parte Recommon, insieme con anche ODG, che è un gruppo con la sede in Catalogna. In Francia ne fa parte l'Observatoire des Multinationales. Diciamo che è promossa da due reti di società civile europea che da anni lavorano sull'industria fossile, che sono la rete Fossil Free Politics, che si batte per estromettere l'industria fossile dai processi decisionali a livello europeo nazionale, e la rete ENCO, che è invece una rete di collettivi che si occupano di fare inchiesta su multinazionali. Abbiamo deciso di instradare questo progetto, che ha come focus quello del Recovery Fund, perché ci siamo accorti che le stesse dinamiche si stanno ripetendo in tutti i paesi membri, quindi non solamente in Italia, e soprattutto per cercare di appunto evidenziare quelle che sono le similarità e le connessioni principali a livello europeo, e anche cercare di giocare di sponda tra la Commissione europea e i paesi membri. Per cui abbiamo messo su questo progetto, che è stato lanciato ufficialmente ieri con la pubblicazione di questo primo rapporto, e pensiamo di continuare a fare ricerche e inchieste proprio con il fine di creare una sorta di osservatorio che permetta, diciamo, di dare alcuni strumenti per orientarci un po' meglio all'interno di questo piano di ripresa e resilienza, che a tutt'oggi sembra rispondere solo agli interessi delle multinazionali e certamente non ai bisogni dei territori. In termini quantitativi abbiamo già detto come le lobby delle multinazionali hanno fatto, abbiamo parlato più di 100 incontri. In termini qualitativi voi spiegate che c'è stata un'operazione di greenwashing attorno all'idrogeno. Esattamente, l'idrogeno è un po' diventato il nuovo stratagemma che l'industria del gas usa, spacciandolo come una panacea alla crisi climatica, come la soluzione per decarbonizzare l'economia, tacendo però su un dato che è molto rilevante, ovvero l'idrogeno prodotto da rinnovabili oggi in Europa rappresenta lo 0,1% della produzione totale di idrogeno. Il 99% dell'idrogeno è prodotto proprio da gas fossile. Quindi l'industria fossile utilizza l'idrogeno come una sorta di escamotage per chiamare semplicemente il metano in un altro modo. E questo sta succedendo ormai da circa 2-3 anni. C'è stata una vera e propria offensiva da parte del comparto fossile per persuadere stati, governi, istituzioni europee nell'eleggere l'idrogeno, nell'elevare l'idrogeno come l'obiettivo su cui puntare per la decarbonizzazione. Il Recovery Plan naturalmente rappresentava un'occasione estremamente ghiotta per queste società, perché puntare su questa nuova tecnologia è naturalmente rischioso e nessuna impresa lo avrebbe fatto investendo i propri capitali. Come sempre però, quando poi arrivano le risorse pubbliche, allora tutti cercano di buttarcisi, e questo purtroppo è esattamente quello che è accaduto. Oggi vediamo che in Italia si puntano 2,6 miliardi sull'idrogeno, e solo perché è arrivato un intervento in extremis della Commissione che ha di fatto ridotto sostanzialmente questi finanziamenti, che altrimenti sarebbero stati 4 miliardi. 4 miliardi, per capirci, è più di quanto il Recovery Plan alloca per il rafforzamento delle terapie intensive in Italia e per l'ammodernamento del parco tecnologico degli ospedali. In Francia abbiamo altri 2 miliardi per l'idrogeno, in Spagna 1,5 miliardi. Al di là dei dati, quello che sicuramente è il dato politico è che l'idrogeno è diventato il protagonista delle politiche energetiche dei prossimi 10 anni. E questo nonostante non vi siano di fatto nessuna logica dietro di questo, perché pensiamo ad esempio alla strategia italiana sull'idrogeno, che è una strategia pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi una strategia ufficiale, ed ha come obiettivo da qui al 2030 quello di investire 10 miliardi sull'idrogeno per ottenere un aumento della produzione dell'1%. Due dati che naturalmente sono totalmente discordanti fra loro, perché chiunque può capire che investire 10 miliardi per un obiettivo così ridotto non ha alcun senso, se non quello di favorire innanzitutto le compagnie energetiche italiane, Snam ed Eni in primis, e dall'altra parte dare una parvenza di cambiamento, che però è un cambiamento solo sulla carta e che ci distrae da quelle che sono le vere soluzioni alla crisi climatica. Nel rapporto fate anche un po' di chiarezza sulle diverse tecniche per produrre l'idrogeno, e tra queste c'è quella dell'idrogeno blu, che riguarda poi un progetto di Eni che è a Ravenna sostanzialmente, no? Attraverso lo stoccaggio della CO2. Esattamente, sì, questo è un po', diciamo, diventato il nuovo progetto icona di Eni, che viene sbandierato continuamente dalla società perché è diventato un po' il pilastro della sua cosiddetta decarbonizzazione. Perché ad Eni interessa tanto questo progetto? Perché affermando di poter catturare 50 milioni di tonnellate dall'atmosfera e stoccarle sottoterra o sotto il fondo del mare, di fatto Eni consente a se stessa di continuare a bruciare petrolio e gas ed emettere quelle emissioni, perché una soluzione potrebbe essere quella, ad esempio, di non emettere più 50 milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera, riducendo la propria produzione di combustibili fossili. Questo naturalmente implicherebbe un cambio di modello di business e quindi anche la perdita di profitti, cosa che naturalmente Eni non ha alcuna intenzione di fare, e per cui l'altra soluzione è quella di promettere che, sebbene Eni continuerà a bruciare combustibili fossili, poi ad un certo punto riuscirà a rimuovere anidride carbonica dall'atmosfera. I problemi sono vari. Il primo è sicuramente che non esiste un progetto di CCS, di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, al mondo che abbia realmente funzionato. Gli unici che hanno funzionato sono quelli in cui l'anidride carbonica veniva reiniettata nei pozzi petroliferi, così da permettere di estrarre ancora più gas e petrolio, che è un bel paradosso, dato che parliamo di un progetto che in teoria dovrebbe aiutare la decarbonizzazione. Sono gli unici casi in cui hanno realmente funzionato. Anche in Italia ci sono stati dei progetti pilota che sono sempre falliti, e sono 10 anni che l'industria fossile ci prova con questi progetti senza riuscire mai ad ottenere risultato. L'altro problema è un problema di rischi, perché naturalmente iniettare un gas come l'anidride carbonica nel sottosuolo non è un qualcosa che non comporta degli impatti. In particolare nei territori ad alta sismicità, come ad esempio Ravenna, pompare milioni di tonnellate di CO2 nel sottosuolo, sotto il fondo del mare, comporta dei rischi, come ad esempio quello di generare terremoti. Questi rischi dovrebbero essere valutati attentamente. Purtroppo però a settembre il governo italiano ha accolto un emendamento che di fatto riduce sostanzialmente quello che è l'iter autorizzativo per il progetto di Eni, consentendogli di realizzarlo in deroga, diciamo, a quella che è l'individuazione di aree idonee per questo tipo di progetti. Questo probabilmente anche per cercare di dare un aiuto alla società del cane a 6 zampe, come è stato poi palesemente ammesso anche dal senatore Collina, che è un senatore di Ravenna del PD e che è il primo firmatario di quell'emendamento, che si è congratulato con se stesso dicendo: finalmente riusciremo a far partire questi progetti. Per noi questo è assolutamente un controsenso, perché un progetto non comprovato, sul quale non ci sono basi scientifiche solide, peraltro realizzato in un territorio sensibile ai terremoti come quello di Ravenna, se proprio deve essere realizzato allora bisognerebbe farlo con tutte le cautele del caso e non accelerando un iter autorizzativo che invece avrebbe dovuto durare 5-6 anni.